che non sa come fiorire ancora nell'arco di un respiro al suo odore. Questo inverno cosa porterà? Un'altra primavera fragile che non sa come fiorire ancora nell'arco di un respiro il suo odore. Lattimon geniale e divino, l'arte della sua luminescenza, muore senza aiuto. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Ed eccoci qua, Blu Radio Veneto, Blu Radio Sera. Una buona serata ancora a tutti voi da parte di Flavio Bilato. Dall'altra parte del vetro abbiamo Maurizio Calzavara, nostro critico musicale. E in collegamento telefonico abbiamo Gabriele Lorenzi, al quale diamo il benvenuto nelle nostre frequenze. Buonasera Gabriele. Ciao a tutti ragazzi, ciao a tutti. Buonasera, ecco, Gabriele. Avete un reperto archeologico, eh? Assolutamente no. Certo. E indovinate un po' dove abbiamo chiamato? Noi siamo di Blu Radio Veneto e abbiamo chiamato in... No, siete qui in diretta, qui a Livorno avete chiamato. Livorno, esatto. A Livorno. Accidenti. Sì, siamo da tanto che ha piovuto, siamo diventati dei muggini, tutti. Assolutamente, noi qua dalle nostre parti dei polipi o dei folpi, come si chiama? Dalle nostre parti, va bene, ne è venuta tanta anche da queste parti, però quella che ci riscalda è sempre la musica, quella che ci protegge. Quello di sicuro. Senti, prima di attaccare la musica, dov'è il mio caro amico interista Prisco? Il tuo caro amico interista Prisco non è presente, però ti sente. Ti sta ascoltando. Sì. Assolutamente, ma perché non può venire in studio? La cosa è molto semplice, non può arrivare perché qua ci sono degli altri colori. No, guarda che anch'io, io ho un nome interista, che è Lorenzi, sì, però esatto. Non lo sono interista, ecco. È un mitico nome, un nome mitico quello di Lorenzi, Gabriele. Scherzi, è veleno. È veleno. Il biscugino del mio papà. Ecco qua, vedi, stiamo parlando già di parentele. Bene. Allora, Gabriele. Allora, attacchiamo con la musica, giù. Sì, dai. Vai con liscio. Bene. Allora, no, quello di oggi, prego. Gabriele, sì, non parleremo di musica di liscio, ma parleremo di quella che è stata, diciamo, la storia della musica ancora tanto tempo fa, intorno al... Avevi cominciato nel 59, Gabriele. Mamma mia. Io ho iniziato... Con i samurai. Con i samurai, sì, ma la cosa più bella è che quando avevo 13 anni mi misero, non c'era più un pianista a Livorno, erano tutti malati, i grandi professionisti, allora mi misero un paio di pantaloni lunghi, altri, e la cintura fino al petto, e mi portarono a suonare dagli americani, avevo 13 anni, e mi regalarono una stecca di sigarette per il papà. Hai 13 visto? Anni, non sapevo nemmeno cosa c'era scritto, Dorsetti, ma non sapevo che cosa fosse. Assolutamente, cioè, voglio dire, ti sei guadagnato la tua prima pagnotta sotto forma di una stecca di sigarette. Quello sì, di sicuro, 13 anni. Assolutamente, quindi stiamo parlando proprio con... Dobbiamo darti del lei, praticamente. No, dai ragazzi, no, questo no, mi prego ragazzi, no. Nel mondo della musica ci si dà del tu, siamo fortunati soprattutto per questo. Vorrei anche vedere, dai. Una mia curiosità, Gabriele, ho letto nella tua biografia che hai inciso un singolo che si chiamava Dies Ire assieme ad Andrea Giordano alla voce. Ma sì, Dies Ire è lo stesso pezzo che poi hai riproposto come progressi? Era Samurai del 67. Poi l'hai riproposto più avanti come primo album progress vostro, Dies Ire, oppure no? Sì, perché certo, avendolo fatto mi piaceva moltissimo, ho detto allora vi faccio alla... Poi sai, chiaramente a quei tempi, quando abbiamo iniziato con la Formula 3, la musica era già un po' cambiata. Certo, per certo. Cui era diventata una specie di suite, una cosa pazzesca. Ma a me interessa una cosa, prima di arrivare alla Formula 3, tu sei arrivato ai Camaleonti, col famoso discorso che Mario Lavezzi è andato militare e tu l'hai sostituito. Sì, sì, perché i ragazzi volevano, avendo fatto loro dell'amore, volevano fare una specie di copia del Procolarum, ecco. Esattamente. Qui l'ora dell'amore fu un successo incredibile da parte di Camaleonti e vendettero più degli stessi Procolarum in Italia. Ma senza dubbio. Ah, c'è anche un'altra cosa molto importante. Prima che arrivassero gli originali, ci voleva del tempo, passavano come minimo 6, 7, 8 mesi. Anche voi ascoltavate Radio Luxembourg come l'Equipe 84 oppure no? Io ascoltavo Radio Luxembourg da quando ero ragazzetto, pensa tu. Anche e posso dire anche una cosa? Dimmi. Che soltanto in due gruppi siamo stati mandati in onda a Radio Luxembourg, noi e la PFM. Perfetto, caro. Gli unici gruppi italiani mandati in onda su Radio Luxembourg, il che era una cosa straordinaria. Certo. Fantastico, vale la pena ricordarlo. Ed erano gli anni esattamente, te lo ricordi? Quello era praticamente le 70, 71, quei tempi là. Poi ti volevo fare una domanda del 72, ma più tardi, perché sai perché? Perché ieri sera hanno fatto vedere un lungo spettacolo fatto molto bene da parte di Paolo Limiti su Mina. I 70 anni di Mina. La domanda è questa: nel 72 a Teatro 10 c'eravate anche voi? No, c'ero solo io dalla Formula. C'eri solo te. Vedi che qualcosa c'è. Qualcosa di vero c'è. Qualcosa di vero c'è. Sì, sì, sì, ma hanno scritto anche un libro, è molto bellino, molto bello. Ma ne parliamo leggermente dopo, Gabriele. Ritorniamo, andiamo per ordine. Quindi arriviamo un momento ai Camaleonti, a un momento all'album che ha inciso Io per lei. Noi abbiamo scelto il pezzo Io per lei. Non è un pezzo significativo perché è una cover, non è un pezzo vostro, non è un pezzo di Camaleonti. Ma è una cover fatta molto bene, secondo me. Non so se sei d'accordo. È detto Mariano, praticamente ha rifatto l'arrangiamento pari, perché l'ho sentito dopo. Tant'è vero che oltretutto Io per lei avrei dovuto cantarla io. Sì. Però avrei un po' rotto l'immagine di Tonino, capito, con il suo con il suo bel eco ritardato. Allora niente, con quel suo vibrato. E lo feci improvviso e poi invece lo cantò Tonino e bello, molto bello. Grande pezzo, sì, bisogna dire. Sì, sì, grande pezzo. Sì. Allora adesso lo sentiamo qui in diretta dagli studi di Blu Radio Veneto, come se fosse il 1900. Blu Radio Veneto, molto belle iniziative, grandi. Mi piace il Veneto poi, dai. Fantastico. Allora guarda, ci ascoltiamo questa bellissima canzone dei Camaleonti e poi ritorniamo a parlare insieme della musica di Gabriele Lorenzi. A tra poco. Ciao. Per quegli occhi vivrei. tu sei un uomo che vale, non arrenderti mai, lotta sempre, io le credo, sai perché? Vita che ho è per Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Ed eccoci qua, abbiamo ascoltato per intero questa bella canzone dei Camaleonti del 1968, L'ora dell'amore. Abbiamo al telefono... No, era io per lei. Scusami, io per lei. Esattamente. Bene. Vabbè, io per lei diviso due. Ecco, io per lei. Io per lei diviso due. Scusa, sì, con To Give era sì. la canzone invece in inglese, quella che si ascoltava su Radio Luxembourg. Dobbiamo sottolineare che qui Gabriele suonava il pianoforte, vero Gabriele? Ma oui, il pianoforte, anche perché non c'erano ancora i vari Moog, eccetera, eccetera. E l'arrangiamento l'ha fatto Detto Mariano di questo pezzo, dice? Sì, Detto Mariano, sì. Che è un grande, era un grande. Sì, è stato un grande, però insomma è riuscita a rifare e a dare le stesse, che poi l'abbiamo risentito poi in diretta, in versione inglese, eh? Certo. Per l'amor di Dio, era uguale, preciso, identico, perché più bello di così non si poteva fare, ecco, onestamente. Gabriele, che atmosfera si respirava all'epoca... del 67-68, l'inizio di carriera tua, cosa si respirava? Che atmosfera c'era dei gruppi beat italiani? Da, guarda, io questa è una cosa completamente italiana. Io ho avuto la fortuna con i Samurai di suonare nel periodo credo più bello in Inghilterra. Io ho suonato 6 mesi a Manchester e a Londra. Nel periodo più bello credo dei Rolling Stones, dei Beatles. Penso c'erano i Moody Blues. Straordinari. Fantastici, sì. Io e noi eravamo laggiù. Addirittura ci prendevano per i Moody Blues quando eravamo nei pub. Ci facevano... Moody Blues. Invece no, e ci chiamano i Folk Samurai. Ah, perfetto. Folk Samurai. Bellissimo. I Folk Samurai. Ottimo. Comunque era una cosa splendida, eh. In quegli anni erano una cosa stupenda. E poi, non mai più. E poi allora dopo i Samurai si rientra in Italia e si trovano nuove soluzioni per fare nuova musica. Certo, era tutto un esperimento, un darsi da fare, perché c'era anche questa musica d'ascolto, ora non c'è più la musica d'ascolto. Se ci fai caso non c'è nessuno che fa musica d'ascolto. No. I 6-7 minuti che duravano i pezzi, quanto duravano i pezzi, ora non era una prerogativa appunto del progressive, quella di fare dei pezzi sempre belli, lunghi, per dare la possibilità anche di fare, come dire, uso un termine forte, sfogare, sì, era un'espressione pop rock di quei tempi, cioè uno si sbizzarriva, c'era il classic rock, non so che nome potevano dargli, noi si faceva perché lo sentivamo, ecco, certo. Senza dare dei nomi particolari. Allora, partiamo, siamo arrivati ai camaleonti, poi lasci i camaleonti e accendi un fuoco importante, un fuoco che è rimasto, il fuoco di della Formula 3. Della tu sei Formula 3, il membro fondatore assieme a Alberto Radius e a Tony Cicco della Formula 3. Un gruppo particolare, tre personaggi, quindi come Cream, tre personaggi. Batteria, sì. Tastiere e chitarra. E chitarra solista, perché questa era la formula. Esattamente. La formula che noi suonavamo senza il basso, perché a quei tempi, cioè, fossimo stati ai tempi del funky, sarebbe stato impossibile. Certo. Che è troppo importante lo strumento, il basso. Ma a quei tempi c'erano i bassi fondamentali legati, tutto, per cui noi praticamente su un trio c'era una batteria, cantante Tony Cicco e due solisti, sì, che era il massimo da raggiungere in tre. E Tony Cicco batteva ben forte la batteria, chiaramente. Era una macchina, qualche volta. Che era, è bravissimo. Certo, certo. Scuola napoletana al massimo, meraviglioso. Bravi, sì, da lì sono arrivati tutti i più bravi percussionisti, nonché batteristi, insomma. Tanto da Tullio a Tony. A tutti gli altri, Esposi, tutti gli altri. Sì. Eccezionali. Quindi Gabriele, 1969, sei entrato nell'etichetta appena nata, la numero uno, Mogol sì, Battista. Perché noi suonavamo al Pipes e noi eravamo talmente amici di Mario Lavezzi, disse: ragazzi, ammazza, ma andate forte. Dice, ragazzi, invece, dai, producici. No, dice, ho un terrore pazzesco. Dice, domani vi porto delle persone che magari sono interessate. Mm. E domani ci portò Colombini, Lucio Battisti, Mogol e Lucio, appena ci sentì, ci fece: oh, regà, c'è già il pezzo pronto! Così. E ce lo dette, l'indomani ce lo dette, e ci dette questo folle sentimento. Questo folle sentimento che faceva parte del vostro primo... Il primo album. È stato il primo disco della numero uno. È vero. Che si chiamava ZN 50.001. È vero. Questo è il numero di serie. Il numero di serie. Il numero di serie è stato bellissimo, guarda. Quindi all'interno di questo disco, che si titola Dies Irae, c'erano molte canzoni di Mogol e Battisti, ma ce n'era anche una di Bennato. Sì, molto bella. Ah, posso dire che, aspetta, ora racconto anche di Bennato. Sì. Vai, vai. Ma lo sai che nel questo folle sentimento noi abbiamo... usato un basso esterno, perché non avevamo tempo, e sai chi è venuto? Un famoso telecronista sportivo. Ah, dai. Bruno Longhi. Ah, è vero, sì, l'ho letto da qualche parte, hai ragione. Bruno Longhi era il bassista della Flora, Fauna e Cemento. È vero, e faceva parte della numero uno anche lui. Esatto, e lui si disse: senti Bruno, vieni a fare un attimo, non abbiamo tempo, dobbiamo fare il basso, dobbiamo partire subito, e venne a fare questo. E cosa, la numero uno, Gabriele, è una specie di comune musicale. Si parlava del clam, la numero uno, può darsi che ci assomigliassi, c'era un collegamento. È venuta dopo, come... Sì, è venuta dopo, sono d'accordo con te, è venuta dopo. Però 73. Lo spirito era quello stesso. Sì, senza dubbio. È stata bellissima, una cosa veramente bella, che non so se oggi ci sono questi presupposti nelle varie case discografiche, non lo so. Per noi è stata una cosa eccezionale. Diciamo che le case discografiche sono un po' cambiate in questo periodo e vanno più alla ricerca del mordi e fuggi proprio da... Sì, tanto è vero che quando ci siamo rimessi nel 90 insieme, che poi nei vari cofanetti noi si vendette per 50.000 copie, anche di più... Comunque la DMG ha detto: sai, noi non facciamo più il rinnovo del contratto perché non puntiamo più sui cinquantenni. Ah, perfetto. L'ha detto così, cavolo, proprio. Guarda, con tutti i dischi che abbiamo venduto non abbiamo mai ricevuto un disco d'oro. Pensa tu, oggi se ne fai 300, si può dire, di copie, ti danno il disco d'oro. È vero, sì. Sì, sono tutti i dischi che regalano poi i parenti dopo la fine, no? sì. Va bene. Comunque ritorniamo al Dies Irae. Dies Irae, noi abbiamo pronto anche sul CD per farlo partire anche il riascolto di di questo folle sentimento, così potremmo sentire bello anche la vita a 4 com'era, quindi Formula 3 più questo signor Longhi che era venuto a darvi una mano. Allora lo ascoltiamo e poi torniamo a parlare ancora con Gabriele Lorenzi e la sua musica. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Questo folle sentimento, i Formula 3 di qualche tempo fa, solamente dire l'età, torno indietro quando andavo alle elementari, pensati Maurizio. Ecco, sì. Gabriele, ti racconto questa. Sei nella piaga, sì, tu, Sì, sì, assolutamente. No, ma ti voglio dire questo, io sono andato alle elementari, ho caricato la chitarra di mio fratello che era più grande, ancora io non sapevo suonare niente, nemmeno adesso so suonare qualcosa, a parte il campanello di casa, però ho portato a scuola la chitarra perché conoscevo conoscevo a memoria la canzone Questo folle sentimento e la maestra mi aveva messo 10 in educazione musicale proprio per merito della vostra canzone. Ripeto, ma sì. Anche perché hai sfruttato una cosa, eh sì, che era in mi, per cui era facile per te, eh? Beh, non so, adesso. Tutti. Ah, ho capito, sì. Però voglio dire, ci sono delle variazioni di tempo che sono molto importanti su questo folle sentimento. Non è un brano assolutamente lineare, è tutto quanto no, un... Ma poi si rivoluzionò anche proprio lo stile, proprio si fece all'inglese, ecco. Insomma, era difficile trovare a quei tempi che si facessero degli arrangiamenti un po' così... roccheggianti su delle musiche italiane, ecco, sì. Era difficile a quei tempi. Perché... E poi insomma, poi sì, ragazzi, poi si cominciò a fare le tournée con Lucio, meraviglioso, si batteva i record di incasso e di frequenza persone da tutte le parti del mondo. Devi raccontarmi, mi hai raccontato prima al telefono, però adesso sì. Puoi raccontare anche ai nostri ascoltatori, le lotte musicali con gli Afrodite Child. Ah sì, perché si faceva ogni volta che andavamo all'altro mondo di Rimini, che era la discoteca estiva più importante d'Italia a quei tempi, e venivano, cioè, in questa discoteca venivano personaggi come Aphrodite, con Vangelis, Demis Roussos, Johnny Holiday, Rory Gallagher. Rory Gallagher, grandissimo Rory Gallagher. Sì, l'abbiamo visto da vivo. Straordinario, forse uno dei più grandi chitarristi mai esistiti. Certi riff li faceva solo lui, chiaramente. Sì, era forte, molto forte, sì. E con questi artisti facevamo a gara chi faceva più persone e più incasso. Bellissimo. Hai detto che avete superato tutti gli incassi quella stagione, insomma, praticamente. Sì, sì, abbiamo la bussola di Bernardini, la famosa bussola, era dove ci andavano da Frank Sinatra, da Richard. A quei tempi era impossibile avere in Italia quei personaggi, si andava noi con Lucio e si batteva tutti, non c'era versi, proprio non c'era ombra di dubbio, chiamavano, ma poi sì. E poi invece poi dopo questi locali qui pazzeschi, facevamo dei localini come a Contarina, è un paesettino, lo conoscete? Sì, voi? Contarina, sì, sì. È qua vicino. Qua no? Vicino, Contarina. Nel Rodigino. Allora, sì. Contarina, una sera d'estate del 69, Luce mi fece, ragazzi, ho fatto il pezzo. Eravamo lì in attesa di andare su, e lui fece con la chitarra in inglese, Maccheronica fece, I wish one window... Let me hear you one foreigner, you'd be bring. Era mi ritorni in me. Sì, vero. Sì. Ecco, la versione, la prima versione in assoluto. Come in è stata? Assoluto. Come l'ho fatto qua la di mattino. Però ce l'abbiamo sentita proprio in primis. Bellissimo. In inglese maccheronico, pazzesco. Sì, era bellissima. Dicevi, Gabriele, che Lucio ti dava l'input, ma poi la trasformazione di pezzi era vostra, era di Alberto, era tua, era di Tony. Era nostra, sì. E poi c'è anche un'altra cosa importantissima. Eravamo proprio in simbiosi, ecco. Lui mi seguiva, gli facevo le armonie dietro, lui mi seguiva, facevo gli assoli, bellissimo. Si andava come dei treni, ecco. Senza controllore, ecco. senza controllore. Controllore doveva essere mogolo. Senti, o no? Volevo chiederti una cosa. Dimmi. Quanti giorni abbiamo per fare l'intervista? No, abbiamo un'altra mezz'oretta circa. Se vogliamo possiamo andare avanti, al massimo fino alle 22:30, poi ci saranno i colleghi di Rockaway che ci portano via il tempo. Ma mi sembra giusto. Dai. È bello, guarda, no, sai perché c'è tanto da raccontare? Lo so. Ma veramente tanto. E parlami di Franco Maimone, che è stato che ha deciso di... Sì, è lui che ci propose, dice, ragazzi, io ho una persona a Rimini, che era il povero Gilberto Amati, ragazzo di 26 anni che morì, era il proprietario dell'altro mondo praticamente. Che morì per un incidente stradale proprio davanti al locale. Orca. Che era il nostro produttore esterno. Mamone ci fece questa proposta, dice, ragazzi, E tanto è vero che la prima serata che si fece laggiù all'Altro Mondo, che noi provavamo lì all'Altro Mondo, ci chiamavamo il trio punto interrogativo. Bella questa cosa. Misero il manifesto il trio punto interrogativo. E Mamone, insieme a Gilberto Amati, ci fecero una specie di logo bellissimo con il frontale di una macchina da corsa con l'alettone dietro, c'era scritto Formula 3. Cioè, ragazzi, da oggi vi chiamerete Formula 3. Ecco da dove deriva il nome Formula 3. Sì, aspetta, il Gilberto era anche il produttore di un grande gruppo che io ero rimasto proprio amico, Ivan Graziani, Anonima Sound. Certo, vero, sì. E lui era il produttore anche dell'Anonima Sound, Gilberto. Okay. Capito? Vedi che ci sta raccontando delle cose che nei libri non sono segnate nei libri. Per quanto noi cerchiamo di documentarci, ci freghi sempre, Gabriele. Perché... Guarda, ne ho tantissime. Ecco perché ti ho detto per scherzo, ho detto quanti giorni abbiamo. No, beh, ecco. Adesso magari rinnoviamo un appuntamento, ci mettiamo d'accordo con Alberto, il nostro gancio per... Il nostro organizzatore di tutto, Alberto. Il nostro direttore artistico. Ecco. Ma vediamo un po' di parlare, solo che è interista, come ricordavi tu all'inizio della trasmissione. Domani sarà lì che soffre. Sì, soffre, in effetti. No, volevo dirti anche, parlo io, tanto voi, io vi intrattengo con le mie cose vissute. Allora, poi il 71 maggio si va a New York e abbiamo fatto due serate a New York e una a Toronto. In Canada, è bello che poi il ritorno avevamo Vidigulfo, bello, bellissimo, vicino a Milano, Vidigulfo, però e prima eravamo stati a New York. Quando siamo andati a New York, a parte aver suonato per gli italiani chiaramente, giustamente, si avvicinavano i ragazzi americani, dicevano, ma noi non credevamo che in Italia ci fossero dei gruppi così forti, ma voi li ammazzate tutti qua. Che devi fare? Sai perché? Loro erano rimasti, i negozi di musicali che c'erano lì a Brooklyn, sai cosa mettevano fuori? Mettevano dell'altoparlante, ci mettevano l'inno della Marina Reale italiana. Si erano rimasti a queste cose qua. Ah beh sì, perché se uno non viene in Italia erano rimasti a volare e basta, non mettevano mica altro. Mandolino spaghetti carbonara, ma nemmeno no capito, proprio nemmeno. E bellissimo, c'erano questi nostri amici italiani, non erano più italiani, erano americani, che parlavano o calabrese perfettamente, io sono inglese perfettamente, ci facevano girare un po' tutte queste cose. Poi a Toronto si dette una mazzata proprio a tutti questi canadesi, americani, insomma, quelle che fosse eccezionale, guarda. Eravamo veramente bravi, non dico perché, ma bravi perché eravamo internazionali di mentalità. Certo, proprio di mentalità. E soprattutto si cantava italiano. Certo. Ed era questa la cosa importante. Si cantava italiano. Poi quando ti ho chiesto di Eternum... Sì, prima. Dopo prima, ricordiamo anche l'aneddoto, sì. Sì, sì, un giorno poi lo metterete più avanti. Eternum, dove il testo, te l'ho detto che me l'ha messo non Mogol, me l'ha messo Lucio, il testo di questo pezzo, di questa melodia mia. Sì. Con questo pezzo andammo a Rio de Janeiro. Il perché? Venne il presidente della Rede Globo, brasiliano, a sentirci mentre noi incidevamo. Siccome disse, siamo alla ricerca di gruppi e cantanti in classifica in ogni parte del mondo, noi vorremmo prendere, scritturare la Formula 3 per fare questo festival, che era o settimo fichi da canção brasileira e poi internazionale. Obrigado. Cioè, questo voleva dire sì. Questo voleva dire che nel programma del festival brasiliano c'erano personaggi come Gilberto Gil, Maria Alcina e tutti i più grandi e brasiliani. Tant'è vero che per i brasiliani vinse Maria Alcina con la canzone Fio Maravilha. Pio Maravilla, non ci gustiamo se você. Quella che si canta sempre con i trenini classici a tutta la festa. Quella vinse il festival, il festival della canzone brasiliana. Noi si vinse, sì. Noi con il Eternum vincemmo il festival internazionale. L'altra cosa ricordiamo... Come? Scusa, no, volevo ricordare agli ascoltatori che Eternum era un pezzo molto classico tratto da Sognando e Risognando, il vostro album del 1972. Esatto. Lo stesso che conteneva anche Storia di un uomo e di una donna. E di una donna, sì. E perfetto. Hai studiato però, eh? Sì, sì, ho studiato, giusto. Anche perché la musica italiana di quei tempi mi ha sempre colpito in particolar modo, soprattutto il periodo prog, per cui lo vivo ancora intensamente, quindi certe cose non si dimenticano. Sai cos'è che, poi vado avanti ancora nel mio raccontare, sai cos'è che è finito tutto nel 73, eh? Eh sì, con la guerra, il colera e l'austerity è finito tutto. Vabbè, ritorno al 72, che siamo andati qui a Torino, dunque noi eravamo per l'Italia e c'era Cristi, te ne ricordi la ragazza Cristi che cantava il pezzo di Alberto Sordi? Amore, amore, amore, amore, amore, amore, da Fumo di Londra. Da Fumo di Londra, sì. C'era lei, sì. Poi c'era, dunque, per la Grecia c'era Demis Roussos. Che aveva già sciolto, che si era già allontanato dagli Afro The Child, era già solista. Esatto, era solista. Poi per gli Stati Uniti, allora, per gli Stati Uniti c'era, non mi ricordo lui come si chiama, vergogna, vabbè. Happy Days. Oh, Happy Days. Lui. Ah, sì, ho capito chi è. Sì. Ecco, lui. E poi c'era David Clayton Thomas, il cantante dei Blood Sweat and Tears. Uno semplice, uno non bravo, incredibile. Esatto. Era bravissimo quello. Poi c'era dunque Dennis Rose, poi c'era per l'Argentina, indovina chi c'era, scusa, Dimmi. Di un nome. Maradona. No, scusa. ho sbagliato. Forse Carvello, forse non era. Era, forse aveva 12 anni Maradona a quei tempi. Sì, era un po' giovane. No, devo dire che noi battemmo Astor Piazzolla, ragazzi. Ah, Astor Piazzolla. Ah, straordinario. Astor Piazzolla che, oltretutto, carinissimo, lui fu il primo a sapere che noi avevamo vinto e venne di rincorsa con la moglie a dirci: ragazzi, abbracciandoci, avete vinto il festival. Bah, ecco. Bellissimo. Bellissimo. Che cosa bellissima. Super. Poi, ragazzi, suonare all'estero così, al Maracanazinho. Quanta gente c'era? Ti ricordi? È attaccato al Maracanà? Sì, 200.000 persone. 35.000 persone al chiuso. Quante? 35.000 persone. Incredibile. Coperte. Incredibile. E poi ti racconto una cosa, mia cugina mi disse prima della finale: tieni, ti do una maglia, la devi tirare fuori appena prima di suonare. E io, vabbè, dice, poi devi dire flamenco ad Maiora e vedrai. Finché il Maracanazinho, io vado su, Italia conjunto, Formula 3, e vado su, e io vado, tiro fuori questa maglia, era la maglia del flamenco. Rosso nera. E dici flamenco ad Maiora. Perfetto. Allora, ragazzi, ascoltatori, voi tutti, vedere 30.000 persone che tiravano fuori o la maglietta o il fazzolettino o il cappellino rosso nero è stato in un secondo tutt'uno un boato come se avessi vinto la Coppa dei Campioni. Fantastico. E Dennis Russo invece non è giusto, non quindi è poi giusto. Poi Mick Jagger ha copiato da voi quando ha sfoggiato la maglietta dell'Italia nel concerto che è venuto qualche anno dopo, molti anni dopo. Ho capito. Bene, sì, allora... vabbè, solo che io l'ho tirato fuori durante un concorso, lui non era un concorso. Vabbè, dai. Gabriele, allora ci stoppiamo un attimo, ascoltiamo un'altra canzone, sempre di Formula 3. A questo punto mi era venuto in mano un pezzo tratto da un album che non è né di Esire e non è nemmeno vediamo un attimino, nemmeno Formula, no, Il Vento, che è tratto da l'album del 1971 che si intitola come il gruppo, quindi Formula 3. Sì, quello che dove siamo con tutte le ragazze ciccione su un ponte. Sì, vero, a Milano. Proprio quello. Bene. Allora, ascoltiamo un po' questo pezzo, poi ci racconterai un po' anche di questo aneddoto. Stiamo parlando con Gabriele Lorenzi, questa è sempre Blu Radio Veneto, all'interno Blu Radio Sera con Maurizio Cazzavara e Flavio Bilato. Ci ascoltiamo questo bel pezzo sempre di Formula 3, a tra poco. Sono le 8 del mattino e tu ancora stai dormendo. Ho già fatto le valigie e adesso sto scrivendo questa lettera per te. Ma non so che cosa dire. È difficile spiegare quel che anch'io non so capire. Ma tra poco me ne andrò e mai più ritornerò. Io ti lascio sola. Svegliare mai. No. No. Cara, le mie mani tremando, i miei occhi stanno piangendo, a me sembra di strappare qualche cosa dentro me e vorrei gridare no, no. Ma se guardo quella porta, io la vedo già aperta e ho voglia di fuggire, di lasciare dietro me tutto quanto insieme a te, di partire solo. Svegliare mai. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. E ci siamo ascoltati questa bellissima canzone, molto particolare, si intitola Il Vento. L'album era del 1971, a cantarla e suonarla erano i Formula 3. All'interno dell'album, con ancora canzoni di Battisti, c'era anche Vendo Casa, Un Papavero e anche Nessuno, Nessuno, quella canzone che toccava addirittura gli 11 minuti. Diamo ancora una buona serata a Gabriele Lorenzi, che ci sta un po' conducendo per mano in questa bella storia dei Formula 3. Allora Gabriele, tre versioni diverse: la versione vostra, la versione di Dick e la versione del protagonista, del creatore del pezzo. La vostra versione, tu mi dicevi al telefono mentre il pezzo andava, è stata incisa prima degli altri. Sì, prima di tutti, sì. E poi Lucio disse: ragazzi, allora questa si mette nell'LP e Dick Dick invece la faranno come 45 giri, la faranno come pezzo A, cioè per se stessi, ecco, per loro stessi. Certo. Questa è una cosa. Poi bellina la copertina, lo so che la copertina è anonima, perché si vede noi tre che siamo su un ponte a Milano, dei Navigli, e c'erano tre ciccioni. Tempi erano ciccioni, e una, quella che tenevo per mano io, era un'amica carissima dei Beatles, pensa. Ah, però vedi, sì, è eccezionale. Dice, ragazzi, che io ero con Dio, ho detto dillo. Gabriele, le copertine, chi aveva l'idea delle copertine? Voi oppure l'ufficio stampa, l'ufficio, la grafica della numero uno? Ma eravamo un po'... No, ce lo chiedevano, si fa così quando c'era da fare il movimento, eh? Allora lo chiedevano anche a noi, potevamo dare dei consigli così, ma... Poi come grafica ci pensava Cesare Montalbetti. Esatto. Scusa, volevo chiederti, tu sei il primo da sinistra, Gabriele, vero? Nella copertina. Sì, c'ho il capello al vento. Ho capito, vento. E tra altre cose hai la cicciona più avvenente. È la cicciona dei Beatles. Lo sto guardando adesso su internet, sono riuscito a recuperare una copertina un po' a tutto schermo. Complimenti, bei gusti. Io volevo fare un annuncio. Sì. Volevo fare un annuncio agli impresari, sì, del Veneto, perché io sto... come mio progetto, sto mettendo su un gruppo, e sarà pronto proprio tra breve, che si chiamerà Gabriele Lorenzi, sì, racconta la Formula 3. Ah, bello. Bello. Bello. Fantastico. Bello, bello. Non voglio fare il tributo e il mito, no, io racconto la Formula 3. Quindi un'alternanza, sì, tra racconti anche inediti di quella che è la, esatto, musica passata, e intrappolata tra le varie canzoni mito di questa Formula, certo, 3. Certo, non tutti sapranno, cioè quelli dal sud non sentiranno la vostra radio, che non ve lo posso dire anche, dai. No, aspetta, che l'ascoltano, perché via web ci ascoltano in molti, anche dagli Stati Uniti, Canada, non te l'abbiamo detto prima. Va bene, comunque, allora ti posso magari dire qualcuno che tanto ti non è un sentire. Pezzo che non farò in concerto, ma te lo dico lo stesso. Sì. Allora, eravamo a Rimini, sì, alla Mogol disse: senti, mi presti la macchina perché ho la mia rotta. Ok, sicuramente faccio un bel regalo, giuro. Allora, se sai, il mio duetto Alfa, e dopo una settimana me lo ridette e disse: guarda, ho dedicato a tua moglie il titolo di un pezzo. Ma dai. Era la mia prima moglie. Beh, allora, lui ha messo Anna. Ah. Bellissimo, un pezzo bellissimo, Anna. È un pezzo bellissimo. Per cui era non il significato, il soggetto, però il nome Anna era stato dedicato alla mia ex moglie. Dai, bello, dai. Bello, veramente nessuno bello. Nessuno lo sapeva, dai. No, assolutamente nessuno lo sapeva. Una cosa molto interessante, veramente. È una chicca. È vero, tante cose sono, guarda, belle. No, poi quindi... il Mogol mi faceva impazzire. Lui è capace che dal Dosso, per arrivare a Milano, fai conto 40 chilometri, parlando in macchina, lui rimaneva in seconda. e ci arrivava a Milano in seconda. Era negato per questo. Fantastico, fantastico. Era troppo forte. Vabbè, dai, questa sarà una delle cose che racconterai in questo spettacolo che stai preparando, Gabriele. Sì, voglio raccontare un pochino, cioè voglio tenere proprio il meglio proprio della Formula 3, e voglio raccontare il perché di quei pezzi, il perché della mia scommessa con Tony, per questo folle sentimento. E poi vi devo raccontare una cosa, che Tony non ci chiappava niente, era fortissimo, sì, nelle sue previsioni. Sì. Allora, quando uscirà, ai suoi tempi c'era lo Stereo 8. Sì, sì, certo. Giusto? Sì, certo. Ecco, infatti il nostro Desire, come LP e tutto, uscì come Stereo 8. Sì, verissimo. Dopo pochissimo, noi ci portano questa cazzetta piccina. E il Tonicicco guardò questa cassetta e disse: non avrà mai successo. Sì. Beh, in effetti aveva anche un po' di ragione, però. La cassetta? No? La cassetta, nel senso che è stata subito soppiantata. Il disco tiene, ma è stata soppiantata. No, ma sono le nostre cassettine, quelle da registrare, quelle piccine, quelle che hanno invaso il mondo. Ah, capito? Sì, no, adesso ho capito. Allora, scusami, chissà dove ho vagato. Con le cassettine, quelle Stereo 8 dice: no, queste cassettine non avranno mai successo. Claro, ne avranno fatte 75 miliardi di miliardi di miliardi. Ah, certo, questo è vero. È e poi si scommise. Ho detto: giuro che il folle sentimento non andrà mai in classifica. E io scommessi, ho detto: guarda, ci scommettiamo uno sputo in un occhio, fanno noi ragazzi, no? Sì, certo. Allora, eravamo a Rimini, lui era disteso sul letto e il pezzo era andato in classifica, e io ci andai sopra, mamma mia, scommessa pagata, certo, per certo. E c'era Alberto che moriva dal risate. C'era Alberto che moriva, mamma mia, fantastico, eccezionale. Vabbè, insomma, queste sono cosettine così. Sono piccoli sfoghi da grande classifica, dai. Ma poi... guarda, una cosa certa è che io, ritornando al Brasile, noi abbiamo suonato al Teatro dell'Opera di Rio de Janeiro, che è praticamente l'imperatore del Brasile, fece alla Scala. Sì, ti ricordi Fitzcarraldo? Proprio Fitzcarraldo citava quel Teatro dell'Opera. Sì. E Buenos Aires. Tant'è vero che l'imperatore, quando venne in Europa, che voleva qualche artista che scrivesse qualcosa per l'apertura, per l'overture di questo teatro, andò da Wagner e lo pagò un sacco di soldi, dicendo: mi devi scrivere un qualcosa per l'apertura di questo teatro. E lui l'aveva fatta, eccetera, ma non voleva più andare a Rio, Wagner. E lo andarono a beccare e lo portarono là, tant'è vero che lui, il Tristano Isotta, fu composto per l'imperatore del Brasile. Pensa a te, insomma, a questo teatro meraviglioso, eccetera. Noi abbiamo suonato tutto un concerto, tutto il festival ha fatto il concerto lì al Teatro dell'Opera. C'è un'educazione paurosa, facevano solo applausi, silenzio totale, un altro solo, applausi. Madonna, io ho detto: senti, noi non veniamo più via dal Brasile, non si rimane qua. E che ci sono? Vero, dai. Vai bene. Vabbè, si vive in tutta un'altra, come dire. Cioè, no, ma in un'altra, guarda, è un'altra dimensione, veramente. Non che voglio, per amor di Dio, l'Italia è meravigliosa, cioè, e mi ha dato tutto, come anch'io nel mio piccolo ho dato abbastanza alla musica in Italia, sì. Però c'è un'altra educazione, non so come mai, c'è un'altra educazione per quelli che suonano, forte, non so, ti ascoltano in silenzio, ti applaudono senza invidia, ecco, capito? Certo. Quindi no, ci stai avvincendo con queste, con questi racconti, Gabriele. Noi avevamo preparato delle domande, ma diciamo che ce le hai piacevolmente bruciate perché ci hai raccontato. No, Marco, fammelo stesso. No. Assolutamente. Le abbiamo levate e messe da parte perché ci stai facendo veramente una storia della musica italiana vista da Gabriele Lorenzi, e spero che questo sia servito anche come ulteriore preparazione a questo lavoro che andrai a fare e a presentare. Gabriele, noi abbiamo scelto. Io spero di insomma, no, mi piace, ecco, sai perché ho detto così agli impresari, se mi ascoltano, mi piacerebbe venire a suonare in Veneto, perché se non ci sono gli impresari veneti è chiaro che io non posso venire in Veneto. Certo. Noi, io e Flavio, abbiamo scelto, per concludere questa bellissima chiacchierata che spero continui in una prossima puntata, parleremo ancora di tutti quei segreti musicali e qualcosa d'altro che tu sai, conosci, Sole Giallo Sole Nero, che era un singolo che non era stato capito al 100%, secondo me. Cosa dici? Ma è stato Sole Giallo era un pezzo da LP, ecco. E abbiamo ricalcato un po' lo stile Proud Mary. Sì, dei Creedence. Allora. No? Sì. Alla noi, perché eravamo in tre, si cantava, era una canzone piacevole, ecco, proprio solare, simpatica, così. E poi tanto è vero che nell'LP, sì, originale, poi si va avanti, si fa soli, coso, e si finisce come? Lasciando cadere tutto. Con noi che camminiamo, cioè è inciso la nostra camminata e si va via. Certo. È una cosa proprio divertente, è stata una cosa divertente. Ma i pezzi, famosi pezzi storici, dal vivo venivano trasformati completamente, Gabriele, oppure no? No, soltanto negli azzoli. Se eravamo in vena proprio questi, magari si aumentavano gli azzoli. Lo sai con cosa si apriva noi? No. Bello, i primi tempi. Ti ricordi She's Not There? Sì, certo. Sì, e noi sì, si apriva con quello all'inizio, perché c'era Alberto, così riusciva, essendo in Mi, accordava bene la chitarra, tutte queste cosettine qua. Avevamo tutti i nostri pezzettini di trucchetti. Certo. Adesso mi fai un ricordo velocemente, poi chiudiamo, di quella famosa serata di Teatro 10 in cui Mina e Battisti andarono avanti all'infinito in modo meraviglioso. Visto che eri presente. Quella serata lì fu... 72. Venne da me in luce e mi fece... Senti, Gabriele, senti, dovresti venire a Roma, che ci andiamo da fare. Devo parlare così perché sennò non riesco a entrare, capito? Sì, nella sua, certo, dimensione. Ci dovresti venire giù a Roma, che c'è... devo fare lo spettacolo a Teatro di Mina. Ha detto, ma ci veniamo tutti con la formula. Dice, no, cioè non posso tirare la formula, perché già diventa una cosa troppo, capito, risentita. Una cosa. Dice, oh, no, ci viene Gianni Dall'Aglio. Cioè, ok, Gianni Dall'Aglio, poi c'era Massimo Luca, sì, c'era il bassista spagnolo, il chitarrista di Torino. E lei dice, allora non è mondo, vieni tu. Bellissimo. Guarda, che quando... Vedi, il brutto purtroppo, non è che brutto, te ne accorgi dopo anni che questa era diventata un'icona dello spettacolo, che purtroppo non si è più ripetuto l'incontro Mina Lucio, mai più, capito? Sì. È stato, io sono orgoglioso oggi proprio di dire ho fatto parte di quella performance e ci siamo ritrovati alla presentazione del libro che ha scritto Enrico Casarini, proprio che ha fatto il libro su... Ma chi erano loro? Cioè Lucio e Mina, cioè, ma loro dietro, che suonavano con loro, con Mina, cioè, chi erano? Ma poi, tra altre cose... E ha fatto questo libro. E quando ci siamo ritrovati a Milano i primi d'ottobre scorso, eravamo, ti dico, si spiangeva, avevamo tutti gli occhi lucidi, perché noi ci siamo dunque nel 71-72, tu pensa te quanti anni sono passati, sì. 38 anni che io non rivedevo più Gianni Dall'Aglio, che non rivedevo più Massimo Luca sì, che aveva scritto Frammenti Rosa, sì, del Festival di Sanremo, certo, ecco, però gli altri non li avevo più visti, pazzesco è stato, guarda, eravamo commossi come dei bimbi. Pazzesco, che poi tra le altre cose hai, così, hai vissuto da vicino anche l'allontanarsi così spontaneo e volontario dagli schermi televisivi proprio di Mina e anche di Lucio Battisti. Come avete vissuto voi come musicisti questo cambiamento di programma dei due artisti? Guarda, io sono sempre stato contrario a queste cose, sai, ognuno di noi la vede in una maniera diversa, ma penso che solo gli americani o altri, o gli inglesi, vadano avanti anche fino a 90 anni a suonare e cantare. Non ho mai capito il perché di Lucio, onestamente, abbia rinunciato a suonare per il pubblico che l'ha fatto diventare quello che è. Certo. Grazie alle sue doti artistiche, però se non c'era un pubblico che l'ascoltava, capito? È come Zarathustra che dice al sole, lo so, sole tu brilli, sei meraviglioso, ma se non ci sono io a guardarti e dirlo. Sì, certo. Capito? E quindi l'avete vissuta in maniera assolutamente non... Sì, ma sai, lui la tirava un po' per le... Pensa che lui, in Italia credo che sia stato l'ultimo spettacolo che ha fatto, era con noi, tutti insieme. Sì. È stato quello lì. Non lo so, poi ha avuto poi dopo le varie diatribe con Mogol, eccetera, eccetera. E dopo inizia comunque un'altra... Ha chiuso là, sì. Non lo so io. Ok, stiamo cercando appunto di capire... Di fare una chiusura? Di fare... No. Di capire il perché Lucio ha così deciso. Mina ha deciso, va bene, voleva, non voleva, aveva paura del pubblico, dicevano. Mina, non so Lucio se avesse paura del pubblico. Non lo so, ma io penso che Lucio, guarda che alla fin fine Lucio è sempre stato un ragazzo per certe cose pigro. Ah, ho capito. Pigro. Che non peva le balle viaggiare, non peva le balle cose, io non peva le balle questo. Però a cavallo con Mogol c'è andato. Sì, ma perché le ha detto Mogol? Ecco, ah, per quello. Magari, sì, ha detto una cosa del genere, ma io ragazzi, che stanno queste Queste imitazioni. Lo posso dire, c'avevo un Q. Ah, sì. Come le scimmie, ecco. Ho capito. Allora abbiamo rivissuto anche dei momenti forti di Lucio Battisti in groppa al cavallo e con Mogol al suo fianco. Attenti, voglio dire questo, sì. E poi chiudete. Sì. Ricordatevi che tanti gruppi, quelli famosi, non sono tanto quello che possono sembrare, eh? Io faccio un esempio, avevamo fatto una diretta di un pomeriggio a Milano e come ospiti c'erano i Gentle Giant. Grandissimi fantastico, ecco, hai visto che ha detto grandissimi, fantastico, e questo fregavano la posizione di Jethro Tull all'epoca, sì, erano, esatto, ecco. Era il gruppo di supporto, bello, dimmi. Perché è bello, perché il regista alla fine della trasmissione dice: beh ragazzi, allora fate un giro di rock tutti insieme, fate una jam tutti insieme, e si chiude mentre passano i titoli e chiudiamo la trasmissione. E loro dice: noi se non c'è scritta musica, noi non suoniamo. E noi si fece come? Ma ti rendi conto? Ma è un giro di rock, è un giro di blues. Certo. Suoniamo, non c'è da scrivere la musica su un giro di rock. Ma avevano... E loro non suonavano, eh? Avevano paura di cosa? Forse non erano abituati a improvvisare. No. A improvvisare, non erano capaci, non lo so. Noi ci si guardò. Da fine a mignotta, ragazzi. Eppure Gabriele, è un fatto storico questo qua. Noi, altri discorsi, gli altri tanto fumo. Gabriele, è un fatto storico. Hanno preso hanno sostituito seduta stante i Jethro Tull in molti concerti perché il pubblico amava più i Jethro Giant che noi i Jethro Tull. È successo in Italia più di una volta. Sì, sì, ma io infatti andai a vedere allo Smeraldo di Milano. A quei tempi era un gruppo della Madonna, cioè erano bravissimi, però tu sei detto tu questo, cioè, sì, casca il palco, ma Ma quando la numero uno ci disse, ragazzi, fate una trasmissione Gentle Giant, vabbè che noi eravamo forti, ma io dicevo, ammazza ragazzi, chi si fa? Porca miseria. Ecco, invece alla fine mi sono detto, e sono io che sono forte, sì. Non loro, capito? Certo, loro certo. Che cavolo, sono un giro di blues, hai bisogno che qualcuno ti scriva la musica. No, non ci sta. In un mare di conoscenza sono caduti in una pozzanghera di incompetenza a questo punto. Vabbè, allora Gabriele, ti aspettiamo presto, vieni, vediamo di metterti... Allora, se la prossima volta fai... Cioè, no, non chiamiamolo più Gabriele che fa un casino, ragazzi. No, la prossima volta cronometriamo meglio il tempo e vediamo di ripristinare le domande che, come ti dicevo prima, abbiamo messo da parte, perché è stato uno spasso, Gabriele, parlare con te, parlare di tutta quella che è stata la storia dei Camaleonti prima, dei Samurai, poi ancora dei Formula 3 e di quello che avverrà sempre nella tua bella musica che hai proposto. Gabriele, grazie di essere stato con noi. Grazie anche a voi, saluto a tutti. Io saluto anch'io in diretta, sì, e tutti i vostri radioascoltatori, e siete forti ragazzi, dai. Bene, grazie Gabriele. Allora, grazie. Grazie. Allora, forti. Terminiamo ascoltando l'ultimo pezzo, i Formula 3 con Sole Giallo e Sole Nero. Ancora grazie Gabriele di essere stato con noi, arrivederci. Ciao. Ciao a tutti. Ciao. Grazie. Sole nero, giorni belli e giorni no, nella vita son sincero, tu sei tutto quel che ho. Com'è bella un'avventura, e se accade la vivrò, chiudi gli occhi qualche sera, tanto dopo tornerò. Sogni miei, ma chi sono? Il mio cuore. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Formula 3 con sole giallo, sole nero. Abbiamo parlato per un'ora e 10 minuti assieme a Gabriele Lorenzi, senza accorgerci del passar del tempo, avvinghiati in questa morsa piacevole. Comunque, tutti questi racconti, tutta questa storia del mondo del rock legato tutto insieme dai Formula 3, da Gabriele Lorenzi e da tutte le sue belle gag, anche se vogliamo, un po' colorito, ecco, da buon livornese, però insomma... Mi è caduto proprio un mito, pensando ai Gentle Giant, mi è caduto un mito. Ma dai! No, veramente, veramente. C'è un aneddoto che possiamo raccontare. I Jethro Tull, quando erano in tournée con i Gentle Giant, hanno letteralmente mandato via i Gentle Giant perché erano diventati troppo importanti rispetto a loro, troppo importanti. Fischiavano i Jethro Tull e applaudivano i Gentle Giant. Questo è l'aneddoto. E quindi... Assolutamente sì, che poi sono anche molto piacevoli tutti e due, sì. Però forse Gentle Giant erano un po' più complicati, forse, ecco. Un po' più legati al jazz o al Canterbury Sound, quindi un po' più raffinati, tra virgolette. Vabbè, okay, comunque vabbè. Il mito si può sempre rifare. Sì, sì, d'accordo. Però questa affermazione di Gabriele mi ha lasciato un po' perplesso. Che poi sono anche curioso adesso di capire, verso la fine abbiamo parlato anche di questo reading, di questo, sì, racconto che Gabriele Lorenzi sta mettendo in piedi per parlare di quello che è stata la sua Formula 3 assieme a Alberto Radius e Tony Cicco. Bene, allora Maurizio, noi abbiamo sconfilato già di 5 minuti, Blu Radio Sera si deve fermare qua, lasciamo spazio a Rock Wave con un'ottima scelta di brani musicali, tutti strettamente e rigorosamente rock. E l'appuntamento, allora, tu... Sì, per domani sera. Ci sei per domani sera, sì. Dalle 22:05 fino alle 24, Maffoni, con questo ragazzo molto springstiano, ma molto bravo, con disco nuovo che dovrà uscire fra qualche mese, parlerà della sua carriera. 3 dischi molto interessanti. Bene, allora abbiamo proprio detto tutto da parte di Flavio Bilato e Maurizio Calzavara. Al solito consueto caloroso Bonne Nuit, ci sentiamo presto. Ciao ciao. Hello! Yeah. Is that you? Who's this? Oh, Cornelius! Cornelius! Yeah! Oh, Cornelius! Listen! Bye bye. Listen! Yeah, man, what's up? I'm trouble. Yeah. My girl just told me to hit the road, Jack, and don't you come back no more.